Cari amiche, cari amici, bentrovate, bentrovati. Radio Alma, Bruxellando, è martedì sera. Abbiamo cominciato questo mese di marzo con un ospite strepitoso la settimana scorsa, Domenico Vecchioni, a cui vanno ancora i nostri saluti. Oggi è il 9 marzo e ieri abbiamo celebrato il centesimo, insomma l'anniversario, il primo secolo tra conquiste e nuovi rischi di quella che è più comunemente nota come la festa della donna, o come si dovrebbe dire, giornata internazionale della donna. Un secolo fa, quindi, le donne decisero che c'era probabilmente qualcosa che non andava. Una nuova coscienza, in realtà, si era impadronita di poche di donne, insomma, abbastanza lungimiranti, se consideriamo il tempo. E di strada ne è stata fatta, se immaginiamo che quelle stesse donne 100 anni fa non votavano, non studiavano o comunque non lavoravano come gli uomini, non potevano scegliersi liberamente il partner, dovevano probabilmente solo ed esclusivamente, secondo quella che era la logica corrente, fare figli, insomma tutta una serie di cose che 100 anni dopo, con tutti i rischi di quello che poi vuol dire ogni nuova conquista, comporta. Eppure all'orizzonte ci sono tante statistiche che ultimamente ci fanno capire che forse stiamo tornando indietro. Quindi più che ricordare e celebrare, io direi di guardare avanti, di dare un nuovo messaggio alle nuove generazioni e a tutte coloro le quali ci ascoltano, a quelle che su Facebook in questi giorni si sono scambiate gli auguri. C'è qualcosa di più, c'è sicuramente una mentalità che ancora deve continuare ad affermarsi. L'emancipazione tutto sommato è variata ed è cambiata nel tempo. L'emancipazione significa tante cose, non necessariamente l'indipendenza del lavoro, non necessariamente la possibilità poi di scegliere un partner. L'indipendenza significa anche poter costruire in un certo modo il futuro, di poter effettivamente scegliere senza quelle che sono a volte ancora le ipocrisie del caso. Quindi questo è l'augurio che Bruxellando questa sera si sente davvero di esprimere, insomma di fare un passo in avanti senza troppo guardare indietro, perché tanto ormai quei diritti vanno effettivamente tutelati, ma quindi impariamo un attimo a situarci rispetto agli uomini, senza sottomissione né opposizione. Ben venga il compleanno, ma purché sia accompagnato da una spinta nuova, dall'invito a proseguire con decisione sulla via della crescita. Quindi gli orizzonti, insomma, li vediamo lì da lontano, non culliamoci sugli allori, anzi non culliamoci sulle mimose, dato che la mimosa è il simbolo di questa festa, e guardiamo avanti. Perché la mimosa? Daniel è curioso in regia, mi chiede perché la mimosa? Pensate che la mimosa venne scelta in Italia dall'Unione Donne Italiane come fiore simbolo di questa data, ma in realtà è il tulipano l'emblema mondiale di questo importante anniversario. Quindi così sveliamo ancora un altro enigma. Bene, allora ci tenevo insomma a fare un attimo questo pensiero, questa riflessione, prima di aprire quelli che sono poi gli argomenti di questa sera. Tanti sono gli eventi che, come avrete modo di ascoltare, caratterizzeranno la settimana qui di Bruxelles, ma questa sera abbiamo un ospite, un giovanissimo ospite. Credo che, se la memoria non mi inganna, Alberto è il più giovane degli ospiti che abbiamo avuto qui a Bruxellando, e l'occasione di parlare di questa sua iniziativa, Leggere è anche collegata a questa splendida settimana che ha visto protagonista i libri, la Fiera del Libro che si è conclusa proprio ieri sera, che è stato un momento comunque di scambio di autori che hanno animato la platea di questo evento che, pensate, ha compiuto 40 anni proprio quest'anno. Ebbene, Alberto, 22enne, ha deciso di organizzare tra 2 settimane in Italia, perché a quanto pare le statistiche europee ci collocano molto in basso rispetto ai nostri amici europei, leggere. Alberto intende promuovere quindi la lettura in maniera un po' diversa. C'era già chi aveva provato a lanciare questo tipo di iniziativa e vi ricordate qualche anno fa, penso fosse un'iniziativa comunque anglo-americana, ora non ricordo se inglese o americana nella fattispecie, forse Fiordaliso ci potrà aiutare, del Book Crossing. Oh, non lo so di dove viene, però penso che sia stata americana per la prima volta. Immaginiamo quindi che sia stata americana, oggi è un giorno di festa e, e praticamente l'innovazione di Alberto rispetto a questa splendida iniziativa è che se prima gli americani suggerivano di scambiarsi un libro, e quindi insomma ci si ritrovava e ciascuno poi si scambiava un libro con in realtà in un luogo pubblico questo libro si lasciava, poi lo si poteva ritrovare, invece Alberto suggerisce delle importanti innovazioni. Alberto? Pronto? Alberto? Alberto? Alberto, sei con noi? Alberto probabilmente sta ancora riflettendo al libro che dovrà suggerirci e che dovrà suggerire a tutti i nostri ascoltatori. L'iniziativa comunque ha l'ambizione, insomma, di coinvolgere tutto il territorio nazionale. Noi nel nostro piccolo Abruzzellando, come vedrete fra poco sul nostro blog, stiamo cercando di promuovere ugualmente questa attività. Il 26 marzo è un venerdì. Il luogo ve lo faremo sapere quanto prima, perché ci sono diverse ipotesi per il momento in ballo, quindi insomma l'iniziativa ci piace, non solo perché all'interno di Bruxellando noi abbiamo questo angolo che è curato da Fiordaliso sul Librangolo, che abbiamo insomma denominato Librangolo proprio magari per distinguerlo da tutte le rubriche che ci sono sui libri, ma perché reputiamo comunque necessario continuare a leggere. Ora che si tratti di un ebook, che si tratti invece di un cartaceo, che si tratti di riviste, insomma la cosa più importante è leggere, perché paradossalmente in quest'era di comunicazione, in quest'era comunque di rapide comunicazioni, abbiamo perso l'abitudine alla lettura, abitudine alla lettura anche dei quotidiani, delle riviste, ma questo probabilmente era già un problema che soprattutto la mia generazione ha risentito moltissimo. Oggi, a distanza di 20 anni di questo enorme successo e boom che hanno avuto le nuove tecnologie, il libro sembra proprio essere sacrificato. E se guardiamo i nostri adolescenti, hanno molto più confidenza con schermi, computer, iPod, insomma con tutte queste nuove tecnologie, piuttosto che avere la pazienza di riscoprire quello che è poi il fascino della pagina di un libro, il cui odore credo leghi ciascuno di noi ad una lettura piuttosto che ad un'altra. E molto spesso, come diceva Daniele qualche tempo fa, magari la stessa grafica di un libro ci induce ad acquistarlo piuttosto che Daniele. Alberto. Questa sera Daniele si diverte in regia e quindi insomma noi speriamo semplicemente, come diceva Giobbe Covatta, di trovare una soluzione. Mi sentite? Alberto? Sì, mi sentite? Ti sentiamo, tu riesci a sentirci? Sì, io ti sentivo anche prima. Ah, io invece non ti sentivo, perdonami. No, probabilmente c'era un problema in regia. Sai, qui insomma, è il bello della diretta, dai. Allora Alberto, benvenuto. Grazie. Allora, raccontaci qualcosa di te. Mi sento un po' male però, scusa, puoi ripetere la domanda? Sì, assolutamente. Allora, raccontaci di te, racconta di questa tua passione. Allora, innanzitutto dici qualcosa di te, così insomma iniziamo a conoscerci, perché so ben poco. Beh, allora, io innanzitutto ho 21 anni, sono abbastanza giovane. Ho già un lavoro, faccio il programmatore informatico e praticamente ormai quasi 10 anni che faccio il pendolare per questioni sia lavorative che di scuola. Quindi diciamo in questi 10 anni è nato un qualcosa dentro di me, vedendo praticamente tutti i giorni delle persone che ormai sono veramente anni e vedo, a cui non ho mai rivolto parola. Quindi io in uno di questi molteplici viaggi in treno ho detto, ma perché non fare qualcosa per cambiare questa abitudine che ormai è diventata rutinaria? E quindi ho detto, boh, proviamo a proporre questa cosa, e quindi ho proposto di regalare un libro a condizione però di farlo ad un perfetto sconosciuto. E allora, quindi, immaginiamo la scena, tu sei seduto in treno, in questo tuo treno, diciamo, da pendolare tutte le mattine, una mattina arrivi con un libro, due libri, e inizi a dire alle persone, avrei piacere di regalarvi questo libro. Esatto, allora non c'è una modalità che comunque ho imposto, quindi il modo di rompere il ghiaccio è arbitrario di chiunque. Io penso di... cioè ho già preso di mira il mio sconosciuto, forse gli parlerò un po' dell'iniziativa, gli dirò guarda oggi è una giornata in cui tutti abbiamo deciso di fare questa cosa, e poi boh, lascerò anche un po' all'improvvisazione, anche perché secondo me è anche simpatico proprio l'approccio con una persona a cui non abbiamo mai parlato. Quindi questa iniziativa tu la praticamente la metterai in pratica soltanto il 26 marzo. Per ora, diciamo, ho proposto di farlo il 26 marzo, ho voluto fare un giorno specifico perché secondo me, cioè sono convinto che se una cosa non si fa tutti assieme si vede poco. Poi chiaramente dopo il 26 a me piacerebbe comunque che cose del genere si facessero tutti i giorni, in maniera un po' più realista, magari spero che si possa arrivare a indurre una specie di giorno del dono allo sconosciuto, e magari ogni 26 marzo comunque ripeterlo. Quindi ora per pubblicizzare questo evento stai distribuendo locandine, immagino, o comunque usando un blog, un sito di riferimento, lo stesso Facebook? Allora adesso praticamente tutto è andato dal mio blog, poi dal mio blog ho creato un gruppo su Facebook e di lì diciamo ho usato svariati canali comunque per la promozione, che vanno appunto dalla radio come stasera o dai programmi in TV a giornali, testate online, e poi un'altra cosa che adesso si sta sviluppando in Italia però sono i flash mob, ne avete sentito parlare voi? No. Sinceramente il flash mob no. Praticamente è un evento di spalla a questa iniziativa. In pratica si sceglie un posto, un luogo, io adesso nello specifico sarò a quello di Firenze il 13 marzo. Ho fissato praticamente alle ore 5 alla stazione di Firenze Santa Maria Novella una specie di ritrovo, ma non è in realtà un ritrovo, perché ho invitato le persone a andare là con un libro in mano. Poi io sarò là con una trombetta piuttosto che un fischietto, e al momento in cui io faccio un segnale tutti si bloccheranno per un minuto, e questo serve comunque per creare curiosità in vista dell'evento. Quindi è una sorta di, diciamo, di, come diremmo qui a Bruxelles, di inaugurazione, di vernissage dell'evento stesso. È una specie di vigilia, però il libro non verrà comunque regalato, servirà solamente per destare un po' curiosità ai partecipanti. Toglimi una curiosità invece, qual è stata la reazione delle persone alle quali ne hai già parlato? Vabbè, allora, sicuramente tra i primi sono stati, potrebbe sembrare la famiglia, invece in realtà la famiglia è venuta a scoprirlo quasi un paio di settimane dopo. In pratica i primi sono stati gli amici, io mi aspettavo quasi un po' delle prese di giro, invece in realtà mi stanno aiutando, sono stati molto contenti e praticamente tutti mi hanno aiutato nello slancio iniziale, che alla fine è stato di passaparola. Bene. Incredibile. Ma come ti è venuto, cioè, quando ci hai raccontato, mi è venuta l'idea in questo movimento, questo viaggio quotidiano. Ecco, perché ti è venuta in mente l'idea di scambiare e regalare un libro? Beh, stavo, quando diciamo è scattata la bolla, stavo leggendo 1984 di Orwell, e quindi era, diciamo, una lettura abbastanza ispirata. Infatti secondo me c'è un'inerzia che porta verso cose come questo, ovvero considerare uno sconosciuto quasi un nemico, e sono profondamente convinto che se non ci si muove dal basso, che oggi sono io un ragazzo di 21 anni, le cose alla fine rimangono sempre uguali, quindi è sì un dono di un libro ad uno sconosciuto, però oltre questo dietro c'è comunque qualcosa di più grande, secondo me, che è anche un invito all'attivismo, a non farsi scorrere la vita addosso. Toglimi una curiosità, i libri da scambiare possono essere anche usati o devono essere nuovi? No, anche qua non ho imposto nessun limite, il libro può essere sia nuovo sia usato. Io personalmente comprerò una copia del libro che voglio regalare perché sono molto geloso dei miei libri. Allora fammi capire una cosa, che relazione c'è, se c'è una relazione, fra la tua iniziativa e il Book Crossing? Tra la mia iniziativa e il Book Crossing? Sì. Beh, allora anche qua devo fare una dichiarazione quasi imbarazzante, ovvero io prima di fare questa iniziativa non conoscevo il Book Crossing. Infatti dopo aver fatto partire questa cosa mi hanno contattato in parecchi, mi hanno detto sì, è il Book Crossing. Io non avevo la idea di cosa fosse, quindi mi sono un po' informato e ho scoperto effettivamente di questo Book Crossing che un po' assomiglia alla mia iniziativa. Io mi sono messo in contatto con praticamente il Book Crossing italiano, ho ricevuto comunque anche sostegni da loro, e però la differenza che secondo me c'è tra la mia iniziativa e il Book Crossing è proprio questo fattore sociale, ovvero il libro si prende, ma invece di, tra virgolette, abbandonarlo, si dà direttamente a un'altra persona, e secondo me è più efficace. Beh, si rischia quantomeno di non perdere i libri, questo è vero. E magari di fare amicizie poi. Perché non perdere i libri, sì, anche qua, tra virgolette, si rischia, però anche di fare la conoscenza di qualche persona, magari anche se il tizio il libro non lo leggerà là già a letto, però si sarà rotto il ghiaccio comunque una persona che alla fine si può scoprire essere molto più vicina di quello che ci poteva sembrare. Nella tua esperienza di pendolare, quando immagino tu prenda il treno, o sbaglio? Non solo uno, oggi praticamente con il lavoro che faccio ne prendo tra andata e ritorno 4 treni e 2 autobus. Oh mamma, vabbè. Per un informatico forse sarebbe meglio il telelavoro a questo punto. Questa è una questione che andrebbe posto a qualcun altro. Però mi stavo chiedendo, non è che per caso, visto che fai il pendolare, insomma, credo che tu incontrerai spesso le stesse persone che fanno il tuo stesso viaggio? Esatto, infatti l'iniziativa è nata anche parecchio da questo, perché a me sembra quasi imbarazzante il fatto che ci sono persone che praticamente vedo da 4-5 anni a cui non ho mai parlato. Cioè, quindi c'è sì il classico sconosciuto, veramente sconosciuto, ma anche loro sono persone che comunque vedo da tantissimo, però sono sconosciuti, e a me questo fatto un po' inquieta. E allora adesso ti lancio io un'idea. Vediamo se si aggiunge idea a idea. Beh, visto che c'è questo scambio di libri, dopo il 26 marzo uno potrebbe anche cominciare con i propri compagni di viaggio a dire scompartimento 4, discussione sul libro X. Sarebbe molto bello, eh. C'è un ragazzo, siccome io in questi mesi, cioè in questo mese ho avuto più contatti di tutta la mia vita praticamente, mi raccontava di una storia bella, ovvero di lui che per incitare alla lettura, quando era in treno, prendeva un libro e cominciava a leggerlo a voce alta. E mi diceva che ogni tanto lo scompartimento effettivamente si svuotava. Però comunque ogni tanto mi ha detto che è capitato anche che rimanessero delle persone, ci parlasse, cioè ha discusso del libro, comunque una cosa anche questa molto simpatica. Certo. Però magari quello che proponeva il nostro George è di magari darsi anche un appuntamento prima e di ritrovarsi con quelle persone, già avuto modo di conoscere magari il 26 e scegliere un tema e parlarne. No, sarebbe, secondo me sarebbe una buona idea. Ora, così su due piedi non so come applicarla, anche perché sempre in questo mese sono venute fuori delle problematiche che io neanche avevo messo in conto all'inizio e neanche mi immaginavo. Però come idea, secondo me l'idea c'è. Ma tipo quali problematiche, se posso essere curioso? Sì, tipo su questa iniziativa sono nate roba tipo persone che mi contattano dicendomi: ah sì, ma lo so che dietro hai un partito, ah ma lo so che dietro hai le librerie che ti pagano, perché è quasi impossibile pensare che un ragazzo possa fare questa cosa senza pensare ai soldi o perché dietro ha qualcuno che lo spinge. Ci scontriamo con la diffidenza classica nostra italiana, insomma, siamo più un popolo diffidente. Altri problemi classici sono proprio quelli a livello comunicativo, perché oggi su Facebook siamo a 230.000 persone e su queste 230.000 ce n'è tantissime che rifanno sempre le solite domande e oggi e anche domani sono solo io a rispondere, quindi mi ritrovo con quello che mi chiede: ah, ma il libro nuovo usato? Ah, ma bisogna ritrovarsi in dei posti specifici o si può fare ovunque? E quando cominciano ad accumularsi tante, tante domande, non ti nego che ho fatto molte nottate insonni. A quel punto benedette le FAQ. Esatto, infatti sul sito, sul mio blog ho fatto proprio una sezione dove ho messo le domande anche un po' stereotipate, le ho riscritte un po' io magari anche in maniera simpatica perché rimanessero anche più impresse, con diciamo le domande più classiche che mi hanno fatto. Più che normale, perché se si dovesse rispondere ogni volta sempre le stesse cose, insomma, sarebbe un po' noioso. È una grande, bella iniziativa, veramente interessante. Alberto, noi qui di Bruxellando cercheremo insomma di farti da eco, e quindi il 26 marzo organizzeremo insomma sulla falsa riga di questa tua iniziativa una piccola manifestazione. Non sappiamo ancora esattamente il luogo, perché un venerdì, insomma, qui i ritmi sono un po' particolari, però di sicuro faremo in modo che questa tua idea possa essere anche vissuta qui a Bruxelles. Bene, io vi ringrazio e vi auguro un buon 26 marzo. Speriamo bene. Prima di salutarci, io ho una curiosità, ma quali sono i tuoi autori preferiti? Ah, ecco, questa è una bella domanda, anche perché, se posso fare una piccola parentesi, io in realtà sono un lettore, tra virgolette, serio da praticamente solo 2 anni, perché a scuola c'è molti libri che ho letto che mi ritrovo a rileggerli oggi, perché secondo me è proposta male la lettura a scuola e viene vista come un'imposizione. Quindi io adesso ho un paio d'anni e mi è presa, diciamo, questa mania della lettura e anche la mania dell'acquisto. Infatti io non riesco a leggere un libro che non sia mio. Anche invece di farmi prestare, mi faccio vedere il titolo e me lo compro. Però adesso tra i miei autori preferiti, diciamo, te li posso citare 2 o 3, diciamo, evangelisti, con, diciamo, la saga di Heinrich in primo piano, Chapaianuk e anche Orwell. Però, complimenti. Ah, il nostro Orwell ritorna alla carica. Il mitico Orwell. E tu, se posso chiedere, che cosa regalerai e perché? Allora, anche il regalo è, la fase di scelta del libro è un po' un gioco nel gioco. Io all'inizio avevo deciso di regalare 1984 di Orwell. Poi però, anche questo è venuto fuori comunque in questo mese, c'è anche da pensare non solo a se stessi, anche perché uno dei difetti dei regali è che si fanno sempre pensando a se stessi. Come magari 1984 di Orwell, nonostante lo consideri uno dei migliori libri che ci siano, però se becco quello che non ha mai letto un libro, che non è abituato a letture impegnative, magari prende scarpe il libro. Quindi addirittura ero andato dall'altra parte con tipo l'idea di regalare, non so, Pancreas di Robbe Colata. Ah, beh, carino. Adesso, penso di aver fatto quasi la scelta definitiva, regalerò Una bella differenza di Marco Aime, che è un antropologo torinese, se non sbaglio, ed è un libro molto corto, mi sembra non sono neanche 100 pagine, dove parla delle differenze culturali e di come, infatti anche questo è un po' legato all'iniziativa, di come il diverso venga percepito sempre in maniera negativa. È vero, il diverso spaventa. è diverso, infatti in questo libro viene affrontato in maniera molto simpatica, anche c'è una parte molto bella dove praticamente parla di un popolo che tutte le mattine si tinge il viso, tutte le mattine rischia di farsi dei freni sulla faccia, poi si muove con mezzi pericolosi, e dopo tutta questa descrizione che le persone si immaginano, ah, ma chissà che barbari sono, poi in realtà si scopre che siamo noi italiani. Infatti parla del trucco la mattina, del rasoio, delle macchine, cioè è molto, molto carino come libro. Puoi ripetere il titolo per favore? È Una bella differenza. Una bella differenza. Bene, di vai, mi hai detto? Di Marco Aime. Ah, Marco Aime. Sì. Bene, ne abbiamo preso nota. Allora, Alberto, purtroppo, come sai, il tempo e il radio è tiranno, ma prima di salutarci, tu invece hai un saluto in particolare a qualcuno? Ma è anche una scena che mi sono sempre immaginato. Ho visto persone che vanno a stare in TV, ah, salutano i miei genitori, ma vabbè, sei in TV, cosa saluto i genitori? Ma no, un saluto particolare, ma voglio rinnovare gli auguri per il 26 marzo, quindi volevo salutare voi, diciamo. Grazie. Allora Alberto, siamo noi che ti ringraziamo, veramente ti auguriamo all the best and lots, lots more, e restiamo ancora in contatto, poi tu ci farai sapere insomma di come è andato il tuo 26 marzo e noi ti faremo sapere come è andato il nostro 26 marzo. Perfetto, allora io vi ringrazio molto per questa chiacchierata. Noi ti ringraziamo e ti auguriamo ancora un'ottima serata e una buona settimana. Anche a voi, grazie. A presto, ciao. Ciao. Ebbene, il nostro Alberto, insomma, giovanissimo, intraprendente, sì, veramente l'iniziativa ci aveva colpito in maniera particolare e abbiamo preferito, insomma, già parlarne adesso a due settimane piuttosto che ritrovarci poi a con qualche giorno, insomma. Quindi invitiamo tutti coloro i quali sono interessati a questa iniziativa di pensare, iniziare già a pensare al libro che intendono regalare, e noi la settimana prossima vi sapremo dire dove organizzeremo questa simpatica serata, diciamo, di incontro e di scambio qui a Bruxelles. Ci stiamo pensando, ecco, ci stiamo organizzando, quindi vedete anche il nostro blog. Qualcuno mi aiuta a ricordare il nostro blog? www.zechepare.fk127-agcp. Ho sbagliato? Sembra qualcos'altro. Ho sbagliato. Ma c'è qualcosa che non va. Josh. Secondo me. Allora, no, stavo scherzando. Bruxellando.blogspot.com. E io cosa ho detto? Se tu, se una persona qualunque dovesse andare a andare sul sito che hai indicato te, trova un poster della sagra del radicchio trevigiano, Josh. Quindi è vero, soprattutto a cjp.jp, trova radicchio trevigiano, va bene. Bene, allora io direi di un paio, parlare di un paio di eventi prima di lasciare la parola invece alla nostra Fiorda Riso per il librangolo. Sono proprio curiosa di ascoltare quelli che saranno i suoi suggerimenti. Ma non abbiamo un po' di musica? E questo devi chiedere al nostro Daniele. È egregio Daniele che sta in regia, non è mica mio amico un po' di musica. George, va bene, vuoi della musica? Te la prepariamo, la musica, sì. Dai. E comunque volevo dire ai nostri teleradio iperascoltatori che fra non molto ritorneremo ad avere qualcosa di sottofondo. Ah, io mi sto sempre aspettando. Ecco, finalmente credo che siamo a buon punto e insomma fra un po' torneremo ad avere un po' di... Almeno un sottofondo, musicali. Dai, almeno un bellissimo tappeto, insomma, sì, ci vuole. Così che insomma si possa respirare. Allora, il ci prossimo vuole. 20 marzo alle ore 19:30 in quel di Bruges al Teatro de Bickorf, Amori, beffe, gelosia. Giorgetto, ne sai qualcosa? Il prossimo hai detto 19 marzo? Sì. Ma come 19? 20 marzo alle ore 19:30. Ah, ecco, il 20 marzo alle ore 19:30. Sì. Sì, una cosa interessante, è a Bruges, forse lo rifaranno anche a Bruxelles, però... Intanto è a Bruges, di venerdì. Intanto è a Bruges, sì. Ma è una cosa interessante, perché amori, beffe e gelosie. Insomma, è la storia... Di cosa si tratta? È la storia praticamente dei grandi, vista dal piccolo. E fin qui... No, nel senso che si parlerà di Petrarca, si parlerà di Boccaccio, di Dante, ma non come autori, come gli autori che noi conosciamo. Invece vedremo quello che ne raccontano chi ci sta vicino, la vera moglie di Dante, quindi, il vero marito di Laura. E quindi vedremo che cavolo succede. Hai capito, quindi insomma dai. Giorgio, tutto questo con sottotitoli in fiammingo? Con sottotitoli in fiammingo? No, non ci sono sottotitoli in fiammingo. In latino forse? No, è in italiano e quindi... Trecentesco? No, diciamo, ci sarà ovviamente un po' di accenti perché insomma mi sembra anche giusto riconoscere la provenienza geografica. Però insomma sarà una cosa interessante e anche divertente, credo. Regia di Vito Lara Spada e Ortensia Semoli, quindi il 20 marzo alle 19.30 al Teatro dei Bickorf a Köpenstraat 3. Per prenotare, quanti volessero prenotare, 050 334 957 0477 724 819, ovviamente a cura della Bottega Magica. Come sarebbe a dire? Hai letto 70 numeri. Beh, ci sono due. Io le ecco, avevo capito uno tutto di fila. Ma quanti numeri sono? Sono due. Allora, uno è 050, com'è? 334-957. Ah, 050-334-957. È questo il numero di rete. Sembra nelle Fiandre, con questo prefisso 05. Poi l'altro è un cellulare, 0477-724-814. Bene. Allora, facciamoci... Ah, abbronzatissima. Vabbè, così non indovina. Brangolo. Ce l'ha fatta. Questi sono i gargarismi di Georges Lara. Il brangolo. E stasera si parlerà di Isaac Asimov. Isaac. Siccome già ecco, quando appunto aveva 3 anni si è trasferito negli Stati Uniti, possiamo anche presumere che sia stato chiamato Isaac per la maggior parte della sua Isaac vita. Isaac Asimov. No, Asimov, I think. Comunque, secondo me non siamo di nuovo lontani, anche se non inteso dall'intervista che abbiamo avuto, perché secondo me Asimov, per esempio, potrebbe essere uno degli autori che si dona alla lettura, cioè è una cosa che ti può magari condurre verso altre esperienze libristiche, perché sono di facile lettura, allo stesso tempo sono affascinanti, sono dei page turner, come si dice in inglese, non so in italiano questo come si potrebbe esprimere, così, dei page turner, e quindi ho deciso oggi di parlare di Asimov, anche perché, anche se l'ho menzionato varie volte, non ho mai dedicato un'intera puntata alle sue opere, infatti ne vale la pena, anche perché se ne sono tantissime. Infatti in uno dei suoi libri non fantascientifici, cioè che si chiama Rompicapo in 4 giornate in italiano, che possiamo fare? Uno dei protagonisti, cioè le traduzioni italiane a volte sono sorprendentemente, cioè, scambiano il titolo, così non si capisce esattamente perché. Comunque in questo libro uno dei protagonisti del libro è lui stesso, però raccontato dalla penna di una terza persona non troppo benigna, cioè uno scrittore fittizio che appunto è uno che cerca di risolvere questo rompicapo in 4 giornate, che non è altro che un assassinio. Oh. E infatti, quindi è un thriller, un noir. Infatti Asimov non si è soltanto specializzato nella fantascienza. E la sua capacità di far ridere su se stesso di per sé sarebbe bastante per farcelo simpatici per sempre, cioè si prende in giro alla grande in questo libro. Per esempio, così sappiamo che nel mondo dei suoi simili era guardato con una buona dose di invidia per la sua facilità e velocità di scrivere. E quindi lui piagnucola che tutti ridono delle sue lagne di scrittura, sulla difficoltà di scrivere, quindi nessuno li crede. E infatti durante la sua lunga carriera ha scritto più di 500 libri fantascientifici e non. Chi? Asimov. Dai, 500? Come 500? Più di 500 titoli sono al suo nome. Questa però non la sapevano, veramente non me la straordinaria, infatti stavo, cioè la sua fava era che praticamente ogni settimana scriveva un libro, cioè, e riusciva a pubblicare e riusciva a farsi leggere, quindi è una cosa proprio fantastica. E poi si prende, in questo libro si prende in giro anche sul fatto che in società non si intravede il fatto che era vicepresidente della mensa, cioè una delle persone più intelligenti sul pianeta. È la vicepresidenza del mensa. Anzi, nella società sembra una persona stupida, specialmente se vede delle belle ragazze. Ma glielo possiamo perdonare, nessuno è perfetto, perché c'è la bellezza, nulla si può, esatto. Si inchina. Adesso mi hai provocato, perché se Isaac Asimov faceva parte del mensa, insomma... Vabbè. Insomma, in questo libro svela anche la sua debolezza di non poter produrre delle descrizioni, e strano com'è, infatti, devo testimoniare che è vero, cioè i suoi mondi sono fatti piuttosto di enunciazioni che di descrizioni, cioè, però a dire il vero riescono comunque a sembrare molto reali, esattamente per questa sua naturalezza di gestire dei paesaggi alieni come se fossero naturalissime, quotidianissime. Comunque, cioè, anche questo libro ve lo raccomando vivamente, è brillante, ironico, è anche un thriller molto interessante e intelligente. Quindi le sue opere più grandi però sono nell'area della fantascienza. Infatti, come ve l'avevo già magari detto un due volte, ha creato dei mondi e delle cose, delle idee che persistono fino ad oggi in altre opere fantascientifiche, anche nei film si fanno riferimenti a quel che ha inventato lui con la sua fantasia infinita. Cioè, prendiamo una cosa che è proprio la base, le tre leggi della robotica. C'è la prima legge: un robot non può recare danno ad un essere umano, né può permettere che, a causa del suo mancato intervento, un essere umano riceva danno. La seconda legge invece: un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, a meno che questi ordini non contrastino con la prima legge. Hai. Terza legge: un robot deve salvaguardare la propria esistenza, a meno che questa autodifesa non contrasti con la prima o la seconda legge. Cioè, sono delle cose ultra semplici, logiche. Se avessimo dei robot intelligenti, probabilmente ci farebbe comodo. Pur tuttavia, è quasi incredibile quante storie riesce a costruire attorno a queste tre semplici leggi. Un'intera psicologia della robotica, che è basata su queste leggi trasparenti, ma che comunque prestano delle complessità non attese, che lui esplora con grande gusto. Robot che mentono, robot che impazziscono in seguito a comandi degli umani, che sono, cioè, proprio alla fine il fattore debole è sempre il fattore umano. Cioè, è l'umano che fa qualcosa che provoca una reazione in un sistema matematico che funziona con precisione e che di seguito ne vengono tante peripezie. Ci sono anche dei robot che sviluppano la curiosità, che hanno capacità di telepatia o addirittura sono religiosi. Cioè, comunque, basta leggere Io Robot, che è una raccolta di racconti molto interessanti in questo mondo dei robot positronici intelligenti, per sprofondarsi in questo mondo così variegato ed interessante. Imola, posso fare una domanda? Fai. Ma questi robot provano dei sentimenti, e se sì, sono stati programmati dagli umani per provare questi sentimenti? Allora, andiamo. Perché mi intriga parecchio. Andiamo, cioè, fondamentalmente i robot non sono capaci di sentire dei sentimenti. Infatti loro reagiscono però su alcune cose che si può definire, diciamo, piacere. Per esempio, se loro riescono ad eseguire degli ordini soddisfacendo la prima, seconda, terza legge, loro sono contenti, perché stanno soddisfacendo, e quindi le loro reazioni sono più. Però abbiamo anche alcuni robot speciali, e infatti andrò verso questo tema con il ciclo dei robot, che è fatto da quattro romanzi: Abissi d'acciaio, Il sole nudo, I robot dell'alba e I robot e l'impero. Cioè un intero mondo, un'intera storia che si sviluppa proprio attorno, cioè lungo secoli, e che si sviluppa anche nella storia umana, cioè proprio dei momenti cruciali della storia futura immaginata degli umani. E nel frattempo possiamo anche seguire l'evoluzione dei robot, anche per soddisfare la questione, la domanda di Daniemme. Cioè, per esempio, la storia segue l'evoluzione di due robot particolari, Daniil, che è un robot umanoide, e Giscard, un robot con capacità telepatiche. I due aiutano un investigatore umano di capacità intuitive straordinarie in una serie di casi apparentemente senza soluzione sulla Terra e anche su mondi fuori della Terra che si chiamano spaziali, diciamo la Solaria e l'Aurora. Cioè, nel seguirlo i robot imparano il modo di pensare degli umani e alla fine si autoprogrammano per seguire una legge zero della robotica, perché realizzano che c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che manca. Cioè che un robot non può fare danno all'umanità, né può permettere che a causa del suo mancato intervento l'umanità riceva del danno. E ciò, essendo una legge che è proprio sopra tutte le altre leggi, si subordina anche la vita di singoli individui. Quindi assistiamo ad un fenomeno strano in cui un robot impara e alla fine diventa un benefattore un po'... più avanzato del programmato, cioè che non si può ordinargli di fare del male che poi risulterà in un danno all'umanità, anche se un umano ci prova. Cioè, da un altro lato invece, queste storie infatti colgono dei momenti cruciali che cambiano il corso della storia umana, che sembra di danzare sempre sulla linea di divisione fra sopravvivenza e di declino graduale. Cioè, vediamo un mondo terrestre sovrappopolato, dove l'individuo singolo praticamente sparisce. Si vive sotto immense campane d'acciaio protetti dal mondo esterno. Però la sovrappopolazione infatti minaccia con l'esaurimento delle risorse e la incapacità dei terrestri di sopportare il mondo esterno, perché vivono sempre chiusi, li chiude su un pianeta senza lasciare vie di scampo. Dall'altro lato invece ci sono i mondi fuori, i mondi degli spaziali, che sono diventati una razza oramai diversa dopo centinaia di anni di isolamento dalla Terra. Gli spaziali hanno vinto le malattie e vivono su mondi sicuri, terraformati, appoggiati da migliaia di robot. Nel loro caso è l'immunità ridotta, la paura per le loro vite lunghe secoli e la comodità estrema che li condanna e li rende incapaci di svilupparsi, di prendere dei rischi. E infatti Asimov tenta di avere una visione così lungo termine da far girare la testa, cercando quei momenti che possono dare una spinta nella direzione giusta per l'umanità, cioè dello sviluppo e della sopravvivenza. Inventa addirittura la psicostoria, cioè una scienza basata sul comportamento collettivo umano che attraverso modelli matematici riesce a prevedere eventi cruciali nel futuro con l'obiettivo di influenzarli nella direzione giusta, cioè sopravvivenza e sviluppo. E nel suo mondo la psicostoria funziona ovviamente brillantemente, sono romanzi, come dice Elijah Bailey, che non è altro che questo investigatore di cui vi avevo parlato prima. Prima di morire dice che non sono i fili individuali che sono importanti, ma la sopravvivenza del tessuto intero. Infatti con questa frase spinge i robot verso questo sviluppo, verso la cura dell'immunità. E gli unici infatti a poter veramente tenere d'occhio questo tessuto intero non sono gli umani, che sono generalmente chiusi in una vita finita e un termine un po' anche finito, ma i robot programmati proprio per proteggere l'umanità. Cioè, le scelte da fare non sono mai ovvie o facili, come non lo sarebbero nemmeno nella vita reale. Alla fine, per esempio, i robot sono confrontati con la scelta se consentire che sulla Terra ci sia sempre più radiazione, così da forzare i terrestri a migrare e cessare la loro mitica però dannosa relazione con la Terra, a costo però di causare ovviamente disagio, la distruzione di un mondo intero nella sua forma attuale. E alla fine non sono queste le scelte grandi che ci incombono anche a noi, cioè anche un vero adattamento al cambiamento climatico richiederebbe un cambiamento così radicale da non far più riconoscere il mondo su cui viviamo, se sarebbe meglio o se sarebbe peggio non lo sappiamo, sarebbe comunque necessario e garantirebbe la sopravvivenza. Cioè, sono proprio questo tipo di scelte di cui si tratta, cioè una scelta che però alla fine ti porta in una direzione completamente diversa dello sviluppo umano. Asimov infatti era un umanista Era un pensatore a lungo termine che anche nelle sue opere di divulgazione scientifica, perché ne ha scritto anche varie, era un biochimico. Era un biochimico? Sì, era un biochimico. Vabbè. Cioè, anche nelle sue opere di divulgazione... Che però non lavorava. Sì, che lavorava. Era il direttore della mensa. Non anche. Non viveva... No, cioè era scrittore, ma faceva anche lavoro scientifico. Cioè. Vabbè, dormiva? Vabbè. A volte, okay. Sicuramente. Cioè, comunque, cioè anche in queste sue opere richiamava l'attenzione sui pericoli della sovrappopolazione e della crisi ambientale. Era uno che vedeva quanto stiamo tenendo d'occhio i punti individuali e non questo tessuto intero, e quanto siamo chiusi nella gabbia del breve termine, e che attraverso le sue storie così intelligenti, però così accessibili e così amati, fa riflettere, secondo me, intere generazioni. Eh beh, sì, è vero, anche perché fa riflettere e ha ispirato un sacco, mentre parlavi di spaziali che hanno questi problemi di gestione del proprio corpo, che insomma non sono più in grado di reagire, mi veniva in mente Wall-E. Infatti, il bellissimo film di... della Pixar, che è bellissimo, anche se io preferisco personalmente Bernie, è un po' più interessante. Bernie, sì, diciamocela tutta, sì, che è il, il lato B di Wall-E, il side B di Wall-E, che è veramente un personaggio fantastico, ecco, insomma, secondo me è quello che l'ha inventato, ci ha lavorato parecchio, si è divertito anche molto, però è vero, fa riflettere intere generazioni, insomma, la capacità di certi scrittori di avere delle... così, delle quasi delle facoltà di previsione del futuro, sono i veri veggenti, perché hanno la capacità di avere delle visioni che lanciano in avanti la mente umana nello spazio, nel futuro, e ci permettono di capire forse anche il presente dove stiamo andando, comunque gettano una luce sul presente. Che bello! Molto interessante come argomento. Che bello! Insomma, grazie, però... Imoletta, per questo Brusselland di oggi, il librangolo che ci hai offerto. Sono contenta che vi abbia destato dei pensieri. Come sempre. Beh, la gente per bene non osa più uscire la sera. Siamo arrivati alla parte dello spettacolo del teatro. E questo è di Jean-Claude Gruber con la regia di Eric De Sterk. Beh, insomma, è una cosa interessante perché è vero, nei nostri giorni le persone per bene, così recita il titolo, non osano più uscire la sera, sortire, è un francesismo. Con questi ebrei, Bugnola, Tribicò, come lo dice, insomma, anche in vacanza bisogna diffidare, parola d'ordine, diffidare. E quindi questo gruppo di personaggi strani e feroci di Jean-Claude Grunberg che ci invitano a porci seriamente la questione della nostra identità e del nostro rapporto con la differenza, e non si lascia e non ci lascia sfuggire. E beh, in ogni caso mi sembra una cosa interessante, mi sembra uno spettacolo che ha un qualcosa in più, è presso l'erichclair.be, www.lerichclair.be, all'erichclair, a Rue de Richclair, tutto semplice, Richclair, 24 a Bruxelles, e dalle 8:30 ed è dal 9 marzo, quindi da questa sera fino al 27 marzo. Invece è cominciata già da qualche giorno un'interessante mostra sul numero zero, Viaggio magico, da Voyage magique d'un certain zéro. E chi l'ha inventato zero? E senti un po', questa mostra affronta la domanda della costruzione dell'identità europea a partire dalle tematiche dei numeri arabi. Come questi numeri appartengono culturalmente al mondo intero? Quali furono le interazioni culturali attraverso le quali questi numeri giunsero in Europa? Quindi questo progetto tenta di rispondere a queste domande e cerca, insomma, di descrivere in effetti la storia dello zero nei secoli. Per quanti volessero saperne di più, la mostra ha luogo alla Maison du Folklore des Traditions a Rue du Chêne, 19.000 Bruxelles. L'entrée est libre, quindi insomma finalmente insomma, una mostra gratuita, aperto dal giovedì alla domenica dalle 13 alle 18, chiuso nei giorni festivi fino al 28 marzo 2010. E beh, sono solo zero che è un numero sembra arabo. Sicuramente interessante, sì. E c'è filosofia, insomma, creare lo zero, inventare lo zero ha fatto fare un salto in avanti alla matematica. Voglia. i romani non la conoscevano. Esatto. Cioè avevano il D, il C, l'L, ma non erano riusciti a capire che con 10 numeri si poteva costruire tutto quanto. E vabbè, anzi, con 9 numeri si poteva costruire 9, esatto. Più 1, 9 più 1. E vabbè, e continuiamo invece adesso a categoria Loisir, Salon, Bourse e Marché, mercato. E adesso lo recito alla francese. Venez vivre votre passion de l'étang du journée et découvrez de nouvelles techniques de matériaux inédits. Des ateliers créatifs, démonstrations et des workshops pour tous les adultes et les enfants passionnés des désireux d'acquérir les dernières nouveautés pour pratiquer une professionnelle l'une ou l'autre activité manuelle. Raggiungetevi in questa manifestazione europea che vanta i meriti e il know-how, il conoscere, il savoir-faire di più di 60 attività legate al divertimento. Il sito web www.creavenue.com. Creavenue. Quando? Sì. Eh beh, allora, intanto è la Bruxelles Expo a Place de Belgique a Laeken, quindi Bruxelles Expo. Comincia l'11 marzo e finisce il 14. Abbiamo 3 giorni, dalle 10 alle 18, tranne venerdì, che è invece nocturne, fino alle 21. Mi sembra una cosa interessante, nuove tecniche, materiali inediti, workshop per nuove novità, per le novità sull'attività manuale, sulle cose creative. Beh, mi sembra che sia una cosa interessante. Questa, veramente, quasi quasi, ci faccio una capatina. Tutti i giorni, o meglio, dall'11 al 14, tutti i giorni dalle 10 alle 18. Bene, sì. Invece, per quanti volessero andare al cinema, proprio l'altra notte c'è stata questa stupenda notte degli Oscar, insomma, tra sorprese, insomma, lacrime e gioia, vince The Hurt Locker. L'Oscar va a una donna, tanto per celebrare, insomma, questa giornata della donna, ed è la prima donna nella storia a vincere e a aggiudicarsi questo premio, stracciando Avatar. Quindi con 6 statuette a 3. Premiati anche 2 italiani d'America, Oscar a Mauro Fiore, vince per la fotografia di Avar, figuratevi, Avatar. Lo dedica ai genitori calabresi immigrati negli Stati Uniti. E invece all'italo-americano Gioacchino, premio per la musica di Up. Insomma, io non ne so molto, scusatemi, tant'è che pure lo Up è questo bellissimo... Ma qual è Up? Cartone animato, bellissimo, di Walt Disney, che racconta la storia di un nonno la cui casetta viene mangiata praticamente dalla città. Ah, mi dispiace. E a un certo momento, insieme a uno scout di passaggio, questa casetta prende il volo e comincia a viaggiare per il mondo. Bellissimo, sembra effettivamente interessante. Sì, alla ricerca di qualcosa, di un mondo nuovo, di una cosa, di un ricordo. La ricerca di un ricordo è bellissimo. Up è bellissimo, la musica infatti è bellissima. Ed è vero anche è che, italiana, che la parte bella di Avatar, per chi l'ha visto in 3D, è proprio la fotografia. Ed è quella nuovamente italiana. Quindi auguri, quindi, insomma, alla creatività italiana, che effettivamente non ha confini. Cari amiche e cari amici, siamo alla fine di questa sfumeggiante puntata. Noi ci rivediamo e vi aspettiamo martedì prossimo. Abbiamo un ospite veramente interessantissimo, quindi restate con noi perché le sorprese non sono ancora finite. Buona serata a tutti, buona settimana e buona agenda di Bruxelles. Miao. Saluti a Daniel Meregia, Giorgio Lona e Fiordaliso. Ciao a tutti. Ciao. Miao.